Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17, 6 minuti e 30 secondi. È già arrivato un sms al 349-238-6666, è quello di Pierangelo da Bergamo, ci scrive: stamattina mi sono detto se non ora quando, e sono tornato a comprare in borsa dopo mesi e mesi, non ci capisco nulla. Cercheremo di capirne qualcosa anche noi, perché anche oggi, come vi abbiamo raccontato anche nel giornale radio e come continueremo a raccontarvi, è una giornata molto difficile. Considerate che nel frattempo, insomma, mentre si chiudeva il giornale radio, iniziava questa trasmissione, il FTSE MIB è arrivato a perdere il 4%, adesso siamo là a ridosso, meno 3,96%, il FTSE OSHARE perde il 3,69%. I ribassi dei titoli, dei singoli titoli, sono a dir poco notevoli. Ben 12 titoli del paniere principale sono andati in asta di volatilità. Fondiari Assai giù del 9,24%, il Banco Popolare dell'8,28%, Intesa San Paolo del 7,8%, il Monte dei Paschi del 7,7%, UBI Banca del 7,33%, la Popolare di Milano del 5,3%. Tutto questo mentre è in calo anche l'Europa, con Parigi che cede il 2,27%, Francoforte il 2,71%, come sempre molto meno di Milano, anche perché lo abbiamo raccontato molto spesso, c'è un peso dei bancari sul listino milanese che è molto forte, e quindi quando si accentuano le difficoltà finanziarie naturalmente il peso ricade sui bancari per una serie di motivi che poi andremo nuovamente ad approfondire, quindi il listino milanese scende di più. Londra niente male in una giornata come oggi, meno 0,19%, e nella giornata che ha visto il raggiungimento dell'accordo sull'innalzamento del tetto del debito americano, scende anche Wall Street. Il Dow Jones cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lo 0,83%, è l'altro argomento che approfondiremo in apertura, perché evidentemente o probabilmente il mercato non è un granché convinto della validità di questo accordo. Si è parlato di compromesso al ribasso, vedremo di capire anche qua quanto c'è di vero. Quindi puntata che tra l'altro durerà, come sempre nella versione agostana di Focus Economia, un'ora, cioè chiuderemo subito prima del giornale radio delle 18, che dedicheremo quasi interamente ai mercati. Avremo uno spazio per prendere un attimo di respiro, probabilmente per parlare di passaggio generazionale e Made in Italy, però vedremo se ne avremo spazio all'interno di una giornata come quella di oggi. Allora, euro contro dollaro a 1,4216. L'altro tema che toccheremo è quello della convocazione arrivata oggi da Palazzo Chigi delle parti sociali. Si vedranno, come sapete, giovedì pomeriggio, parti sociali che incontreranno invece nella mattinata l'opposizione, mentre c'è grande attesa naturalmente per l'intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in aula mercoledì per parlare proprio di politica economica. Iniziamo dalle notizie in breve di oggi, come sempre. Allora, come si diceva, come sentivate anche nel giornale radio, torna a risalire la pressione sui titoli di Stato italiani. Lo spread tra BTP e Bund decennali è tornato, sia la differenza di rendimento, è ritornato sopra i 340 punti, per l'esattezza toccando i 342,2. Delle borse vi abbiamo detto ampiamente, ci sono state anche una raffica di sospensioni per eccesso di ribasso. Per quanto riguarda le materie prime, l'oro è sceso sotto la quota record proprio dopo l'accordo sul debito americano, a quota 1607,45 dollari l'oncia, lieve rialzo per il petrolio a 97,29 dollari al barile, almeno in apertura questo. Appunto l'accordo sul tetto del debito che autorizza il presidente Barack Obama ad alzare il limite legale del debito di almeno 2.100 miliardi di dollari, eliminando la necessità di ulteriori aumenti fino al 2013. Anche questo sarà il nostro tema di approfondimento di apertura. A dir la verità, dal lato dei mercati, per quanto riguarda quantomeno i titoli di Stato, l'iniziale reazione era stata, e anche le borse, l'iniziale reazione era stata ottima, perché Tokyo aveva fatto segnare un più 1,34% circa, Milano in apertura aveva segnato i quasi 2 punti percentuali di rialzo, e i titoli di Stato si era ridotto il differenziale, lo spread tra BTP e Bund a quota 323,5 punti e poi, come si diceva, è ripartito. E come si diceva, Silvio Berlusconi sarà in aula mercoledì pomeriggio. Ha dato la propria disponibilità ai presidenti di Senato e Camera per un'informativa sulla situazione economica, prima alla Camera e poi al Senato. C'è la convocazione delle parti sociali in una situazione che dal lato dei dati macroeconomici oggi ci fornisce anche quello sulla disoccupazione italiana, che rimane stabile ad un 8%, registrando una variazione nulla rispetto al mese precedente. I dati sono destagionalizzati ma provvisori, dice l'Istat, il livello è analogo a quello registrato negli ultimi mesi. E comunque il numero di disoccupati scende a 2 milioni, attestandosi precisamente a quota 2,001 milioni, insomma per quel che vale, registrando un calo rispetto al mese precedente dello 0,3%. A livello europeo la disoccupazione, l'Europa 17, al 9,9% in giugno. E poi notizia delle scorse ore, magari vedremo di trovare lo spazio di trattarla nei prossimi giorni, la vicenda di Arena Ways, la prima compagnia privata italiana di ferrovie, un'avventura che sembra avviarsi al capolinea, anche se il fondatore e amministratore delegato Giuseppe Arena non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Comunque sia, se l'ipotesi che sta circolando è che venga nominato un curatore fallimentare, giovedì scorso il CDA a maggioranza ha deliberato appunto di portare i libri in tribunale. Non circoleranno nel mese di agosto i treni del collegamento Torino-Milano, come era stato previsto appunto prima della decisione del CDA di giovedì. E veniamo al primo tema di giornata, o meglio ai primi due temi di giornata, ossia i mercati e l'accordo sul debito. Allora, già iniziano gli sms, ce li aspettavamo in una giornata come questa, nonostante sia il primo agosto. Ci parlate in molti ci parlano di speculazione. Ci chiede Luciano da Vicenza se si può calcolare all'incirca quanto incidono le vendite allo scoperto sulle banche per farle crollare e poi ricomprare a prezzi più bassi. Insomma, voglio dire, le ipotesi sono tra le più varie. Allora, io saluto il professor Sandro Brusco, economista della Stony Brook University dello Stato di New York, tra i fondatori del sito Noise from America. Buonasera, professor Brusco. Buonasera. Col quale affronteremo più specificatamente il tema dell'innalzamento del tetto al debito, dell'accordo raggiunto nella notte e in extremis. Saluto anche Moria Longo del Sole 24 Ore. Buonasera, Moria. Buonasera a tutti. E con le vostre voci cercheremo di incrociare i due temi, questa giornata di passione sui mercati di oggi e questo accordo di questa notte. Iniziamo dunque dal professor Brusco e le chiedo come valuta questo accordo, perché a guardare i mercati oggi, anche quelli americani, sembra che non lo valutino un granché bene. Il Dow Jones cede lo 0,65%, lo Standard & Poor's, che spesso è più indicativo, uno 0,78%, il Nasdaq lo 0,73%. Professore. La verità, allora, esiste ancora un margine di incertezza riguardo all'accordo sul debito, perché deve essere votato oggi dal Congresso e dal Senato, quindi è difficile dire se la reazione dei mercati è una reazione a questo tipo di incertezza o ai contenuti specifici del debito. Dell'accordo sul debito. L'accordo sul debito non è che si capisca tanto che cosa abbiano combinato, ma d'altra parte non mi sembra che sia una novità, nel senso che ovviamente è tutto improbabile che si potessero aggiungere dei grandi compromessi ben dettagliati e molto chiari nel brevissimo spazio che mancava alla scadenza del 2 agosto per alzare il limite del debito. L'accordo ha evitato la cosa più disastrosa, che era quella di sostanzialmente una crisi costituzionale su cosa fare con le spese pubbliche una volta evitato, una volta che non veniva aumentato il tetto del debito. Mi sembra che in realtà la reazione dei mercati sia abbastanza limitata, come è stata limitata per tutto il mese di luglio. La mia impressione è che... Ne abbiamo parlato, tra l'altro, professore, ne abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi, dicendo che in realtà i mercati non sembrano esserselo, scusate l'espressione un po' brusca, non sembrano essersi filati molto tutta questa trattativa, no? E hanno fatto benissimo, perché era abbastanza chiaro che era teatro politico e che alla fine si dovesse accordare, era abbastanza scontato. Per tutto il mese di luglio i tassi di interesse sul debito americano sono stati molto bassi, credo che venerdì abbiano chiuso a 2.8 il decennale. Quindi stiamo parlando non solo di tassi bassi, ma di tassi storicamente ai minimi, il che significa che nessuno ha preso sul serio la possibilità di un default americano. O comunque, anche se non si fosse stato l'accordo, era chiaro che poi l'accordo si sarebbe trovato subito dopo. Non è pensabile che il governo americano smetta di pagare proprio i debiti in un modo così disfunzionale. Bene, professore, detto ciò, mi sembra che la reazione invece alle borse europee di oggi abbia ovviamente a tutt'altre origini, naturalmente, no? Cioè, alla fine siamo stati appesi a guardare come sarebbe andato questa trattativa tra repubblicani e democratici, siamo stati appesi alle parole di Obama, poi in realtà abbiamo i nostri problemi ed è quelli che dobbiamo risolvere, no? La sensazione è questa. Questo è sempre stato vero. Guardi, a quanto veramente noi siamo stati appesi non lo so, sicuramente sono stati appesi quelli che vivono nel mondo delle notizie politiche, qua in America le televisioni via cavo che fanno notizie 24 ore su 24 hanno parlato incessantemente della cosa. La verità è che mi sembra che dal punto di vista economico sia successo abbastanza poco. E che sui mercati, voglio dire, i mercati hanno preoccupati la settimana scorsa, ma anche perché sono uscite numeri sulla crescita del PIL che erano abbastanza deludenti, quindi quello immagino che abbia contato molto soprattutto la revisione del primo trimestre, mi sembra, no? Che è stata esattamente. Quindi quello mi sembra che sia stata la cosa principale sui mercati. Poi il resto è veramente a teatro politico abbastanza snervante, ma per il resto senza grosse conseguenze economiche, mi pare. Allora, l'Europa c'ha i suoi problemi, che sì, purtroppo non si risolvono con una leggina del Congresso, come invece succede qua in America. Naturalmente. Allora, adesso ci torniamo. Intanto vi do queste due notizie. Ve le metto insieme perché sono uscite insieme senza alcuna volontà di collegarle, anche se forse in parte lo sono. Comunque, allora, c'è il dato sul fabbisogno che migliora di 5 miliardi in 7 mesi a 39,6 miliardi e sono i dati del Tesoro, e c'è ancora un ritocco al rialzo degli spread, dei differenziali di rendimento tra BTP decennali italiani e corrispondenti titoli di Stato tedeschi. Siamo intorno ai 352 punti. Veniamo dunque a Moria Longo, del Sole 24 Ore, che si occupa prevalentemente di queste cose, ma anche ci può dare, forse illuminare un attimo su quello che sta

Penso che avremmo potuto fare subito le dure scelte in tema di welfare e riforma fiscale senza attendere le risposte di una commissione speciale. Tuttavia, questo accordo è un anticipo sulla riduzione del deficit di cui abbiamo bisogno e offre a ciascun partito l'incentivo per presentare un piano bilanciato entro la fine dell'anno. Ci chiedete se tutti hanno debiti, chi ha crediti? Facciamo qualche esempio. Il debito americano è distribuito in mano a fondi, banche, assicuratori, risparmiatori, aziende e per un quarto circa alla Cina. Debito americano, mi corregga se sbaglio, professor Brusco, che ammonta più o meno al 100% del prodotto interno lordo, cioè chi estende ancora di più considerando, come dire, altri pezzi dello Stato o degli stati, c'è chi estende questa cifra oltre addirittura il 140% del PIL, no? Questa è un'operazione che non fai, francamente. Gli Stati Uniti sono uno Stato federale sul serio, quindi il debito degli stati e degli enti locali non è sommabile al debito del governo federale. Il governo, le ultime cifre sul rapporto debito-PIL non le ho viste, ma non credo che siano il 100%, mi sembra che sia un pelino o meno, ma comunque non è che sia particolarmente importante tutto questo. Il punto è che più che il livello del debito, più che il suo rapporto con il PIL, quello che conta è la fiducia nei mercati sul fatto che il debito verrà rimborsato. I catastrofisti dovrebbero dare un'occhiata a quali sono i tassi di interesse a lungo termine sul debito americano, che continuano a essere estremamente bassi, quindi questo sostanzialmente significa che gli investitori si aspettano di essere rimborsati in pieno, non si aspettano nessun particolare problema dal punto di vista della tenuta dei conti americani. Su come si farà a rimborsare il debito ha ragione quello che è intervenuto prima. È ovvio che senza una ripresa della crescita tutto diventerà molto più difficile. Io non so quanto questo accordo veramente possa contribuire a una soluzione di lungo periodo. La mia impressione è che una soluzione di lungo periodo al debito americano deve avere un approccio un pelino più bilanciato. In parte è inevitabile. Bisognerà crescere un po' con le tasse e poi bisognerà affrontare la questione spinosa delle spese sanitarie, che sono abbastanza fuori controllo e che si prevede che aumentino nel lungo periodo. L'accordo che è stato fatto adesso non mi sembra onestamente che faccia molto, nel senso che dai pochi dettagli che sono riuscito a capire e a vedere dai giornali di questa mattina, rimanda un bel po' di decisioni a novembre, o una commissione congressuale, una commissione bipartisan che dovrebbe essere costituita nel congresso, che fa raccomandazioni, su questo si ridiscuterà. Per il resto, tutte queste cifre che vengono sparate un po' mi sembra abbastanza a caso, sommando, una cosa abbastanza ridicola è che tutte queste cifre sono somme su 10 anni senza fare nessun tipo di sconti, senza chiarire bene qual è il sentiero temporale della spesa, che non significa che sono numeri che non hanno molto senso. Voglio dire, una cosa è un risparmio di un dollaro fatto nel 2011, una cosa è un risparmio di un dollaro fatto nel 2021, sono due cose abbastanza diverse, però in tutte le notizie che sparano in questi momenti le sommano come se fosse la stessa cosa allegramente. Sostanzialmente la cosa resta aperta, bisogna vedere quanto tempo ci permetterà l'economia americana a ritornare sul sentiero di crescita in cui era prima della crisi, e dal punto di vista politico quali tipo di accordi si potranno seriamente fare per limitare la crescita della sanità. Questo è quello che succede fino adesso. Chiarissimo, professore. Allora, io credo che Moria Longo volesse aggiungere qualcosa, e poi la domanda che ho per te, Moria, è l'Italia a questo punto. Abbiamo fornito poco fa il dato, l'aggiornamento sullo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, oltre i 352 punti, quindi su cosa volevi aggiungere? È arrivato prima l'SMS: se tanti sono i debiti, chi è che presta? Il punto è che i debiti e i crediti sono incrociati, le banche prestano agli stati quando gli comprano i titoli di Stato, ma gli stati a loro volta in molti casi hanno salvato le banche, quindi hanno ridato indietro i soldi che si sono fatti prestare. Il problema è che in questa grossa grossa montagna di debiti pubblici e privati, il creditore e il debitore sono la stessa cosa. Io presto a te, tu presto a me. Alla fine il rischio sistemico è proprio questo. Nel momento in cui salta uno, saltano a birilli tutti gli altri. Questo è il vero problema. Non c'è uno che presta e uno che... Poi c'è ovviamente la Cina, per esempio, è più prestatrice, ovviamente agli Stati Uniti ha prestato circa 1.000 miliardi di dollari. Quello è un altro discorso. Però a livello di economie grosse, il birillo si passa tra le banche e gli stati ed è quello che ha fatto aumentare il debito. È tutto incrociato. Ora veniamo all'Italia, al tema dell'Italia. L'Italia ha un grosso problema, non da oggi ma da sempre, dagli anni Ottanta, il debito pubblico, che è gigantesco. Allora, il debito pubblico così grande, con una crescita economica che in Italia è sempre stata abbastanza asfittica, si può gestire, è sempre stato gestito, senza nessun problema. Il problema qual è adesso? Il problema è che i mercati sono molto tesi e vedono quello che prima era solo un neo, lo vedono come un qualcosa di preoccupante. Allora iniziano a vendere per paura o per speculazione, è impossibile capire chi ci gioca e chi ha paura veramente. Il problema è che vendendo titoli di Stato italiani salgono i cosiddetti spread, salgono i rendimenti. Nel momento in cui uno ha tanti debiti da rimborsare e i rendimenti salgono, i tassi di interesse salgono, è banale capire che è difficile sempre più rimborsare questo debito. Il problema è come uno che ha un mutuo da 100.000 euro e ha un tasso del 3% e uno stipendio che ne so è 2.000 euro al mese riesce a rimborsarlo. Se lo stipendio gli cala, il tasso di interesse gli raddoppia, a un certo punto non ce la fa più. Quindi non è il mutuo in sé un problema, ma il tasso di interesse. Allora il problema in Italia adesso è che in una situazione di mercati così tesi il costo del debito per lo Stato italiano aumenta. Questo sta a cascata aumentando il costo del debito per tutti gli altri soggetti italiani. Per esempio le banche. Le banche prima della crisi, quando si finanziavano sui mercati, pagavano uno spread, cioè una maggiorazione sul tasso Euribor di 17 punti base, 0,17. Adesso pagano quasi 200 punti base, quasi 2 punti percentuali in più dell'Euribor. Allora, anche qui, le banche non hanno un problema in sé, ma nel momento in cui il loro costo del debito aumenta, a un certo punto la corda si può tirare, a un certo punto si spezza. E questo è il vero rischio. Sì, anche se poi, come ci segnala anche un ascoltatore, quotano circa un 90% in meno rispetto al 2007 ormai, insomma, pur... tutto sommato producendo utili. Certo, è verissimo questo. Il problema è lo stesso. Una banca vive se riesce a finanziarsi sul mercato interbancario, sul mercato obbligazionario e così via. Dal momento in cui il finanziamento diventa più difficile, tutte le tue virtù diventano di secondo piano, perché il tuo unico problema rischia di farti cadere. Quello, ripeto, non è la realtà adesso, è un rischio. Se le cose continuano così, è un rischio. Per esempio, gli analisti calcolano che, tornando al debito pubblico, un rendimento del 7% per i titoli di Stato decennali sarebbe insostenibile per qualunque Stato, non per l'Italia, per tutti. Allora, il titolo di Stato decennale americano è arrivato al 6%, quindi non siamo così lontani. Se arrivasse al 7%, veramente ci sarebbero problemi. Allora, il punto è il mondo politico deve reagire, fare delle riforme, reagire in maniera forte, far capire ai mercati che la politica c'è, ha le redini in mano, e questo ridarà fiducia, farà scendere i tassi di interesse e il non problema di prima, che oggi è un problema, ritornerà un non problema. Allora, noi abbiamo una breve pausa, però a questo punto mi sembra che nel discorso che ci ha fatto Moria Longo, soprattutto nella chiosa finale sui tassi americani, sia coinvolto anche il discorso che ci faceva prima il professor Brusco sulla sostenibilità del debito americano nel lungo termine. Allora, se lei è d'accordo, professore, rimane in linea ancora 3-4 minuti con noi, abbiamo una breve pausa e poi ci risentiamo e le faccio dare una risposta. Okay, a tra un attimo. Le 17:38 minuti e 18 secondi, vi comunico intanto che Milano ha chiuso praticamente sui minimi, meno 3,87% per il FTSE MIB, meno 3,63% sul FTSE All Share. Chiudiamo però con l'America, perché tra un attimo torneremo invece a parlare della borsa italiana col professor Sandro Brusco, economista della Stony Brook University dello Stato di New York, tra i fondatori del sito Noise from America. Allora, professor Brusco, una risposta sulla sostenibilità a lungo termine del debito americano. Ma questo non, francamente non mi sembra che sia un grosso problema. Come ho detto, se uno guarda ai tassi di interesse a lungo termine sul debito statunitense, non sono mai stati così bassi. La vera questione è quando riprenderà la crescita. Cioè, ci sono due questioni. Quando riprenderà la crescita e che tipo di compromessi riusciranno a aggiungere in congresso sulle le cosiddette spese per entitlement, ossia praticamente in particolare le spese sulla sanità. Questa è la chiave per determinare la sostenibilità di lungo periodo del debito. Al momento non mi sembra che il debito americano sia su una spirale insostenibile. C'è ovviamente un deficit di bilancio che è dovuto in parte all'aumento di spese di stabilizzatori automatici che ci sono in fase recessiva, in parte a una riduzione degli introiti fiscali, anche questi connessi all'economia debole. Se la crescita riprende, le cose dovrebbero andare più o meno a posto. Come ho detto, la vera domanda è quando è che riprenderà. Quando è che riprende la crescita, perché è certo, il punto è esattamente quello. Un'ultima battuta, Moria? No, cioè, sul tema del debito. No, io penso che il debito possa essere sostenibile. È vero che i tassi sono bassi, ma il motivo per cui i tassi sono bassi secondo me dipende da due cose. Uno, che la Federal Reserve ne ha comprati tantissimi, ha smesso, ma l'ha fatto per tanto tempo e comunque in maniera minore sta continuando a farlo. Il secondo motivo è che il dollaro è una valuta di riserva mondiale, tutte le transazioni su materie prime eccetera vengono fatte in dollari, quindi tutti, per esempio gli esportatori di materie prime o determinati soggetti devono avere dollari, quindi investirli in titoli di Stato. Il problema è se questa cosa dovesse cambiare. Allora io spero che la crescita economica e la soluzione sul debito pubblico italiano venga trovata prima, altrimenti secondo me i tassi salirebbero e qualche problemino ci sarebbe. Chiarissimo, grazie dunque a Moria Longo del Sole 24 Ore e grazie al professor Sandro Brusco per essere stato con noi e per aver accolto il nostro invito. Professore, buonasera. Buonasera. E buonasera Moria. Buonasera a tutti. Allora, noi adesso veniamo più propriamente alle borse e vediamo magari di uscire dal giro banche e borsa nel suo complesso, che mi sembra abbiamo toccato ampiamente i mercati. Eleonora Micheli, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, di quel che è successo oggi, a partire più o meno dall'apertura di Wall Street, da quando gli americani si sono svegliati, direi che abbiamo parlato fin troppo, diciamo, per cronaca, un meno 3,87% sul FTSE MIB, un meno 3,63% sul FTSE All Share, giù tutti i finanziari, su tutti i fondiari assai, giù del 9,19%, tutti i bancari, gli assicurativi, UBI Banca del 7,93%, Monte dei Paschi del 7,8%, Intesa San Paolo del 7,8%, Banco Popolare del 7,7%, la Popolare di Milano del 5,3%, Mediobanca del 5,1%, Buzzi Unicem del 4,7%, mentre invece sempre tra i bancari Unicredit del 4,3%. Allora, l'unico titolo che ha retto per tutta la seduta in realtà è Campari, che chiude con un rialzo dello 0,61%, così almeno iniziamo dalle buone notizie, visto che di cattive ne abbiamo parlato fino adesso. Sì, esatto, proprio Campari che sembra non arrestare la corsa iniziata a inizio luglio, e appunto, a parte qualche battuta d'arresto, le azioni sono sempre andate su, soprattutto dopo che la società ha festeggiato i 10 anni di quotazione in borsa, rendendo noti gli ottimi risultati dei 10 anni. Non ci sono motivi particolari, non è che siano girate voci o studi particolari che hanno sospinto in alto le azioni, ma evidentemente il mercato scommette sulla società. Poi si inizia a ragionare anche su eventuali acquisizioni che potrebbe fare il gruppo per rafforzarsi ulteriormente. Allora, questo per quanto riguarda Campari. Vedo tra i titoli che sono riusciti a salvarsi nella giornata di oggi, a rimanere più o meno a ridosso della parità, appena sopra, anche Autogrill, anzi perfetto pareggio per Autogrill oggi. Sì, Autogrill anzi in mattinata era riuscito a andare bene, poi appunto la borsa è andata giù e quindi ha azzerato i guadagni. D'altra parte, in relazione a come sono andati i listini, ha fatto sicuramente bene. È da venerdì che le azioni di Autogrill vanno bene, festeggiando i conti del secondo trimestre, che sono appunto stati resi noti venerdì scorso e che sono risultati al di sopra delle attese del mercato. Mi sembra complessivamente che abbia tenuto anche il settore del lusso, Eleonora, se così possiamo dire, del Made in Italy, chiamiamolo come vogliamo, insomma. Ma sì, oggi diciamo che l'attenzione, come hai già detto tu in apertura, è soprattutto sui titoli finanziari e sulle banche, che sono letteralmente crollate, mentre hanno retto di più diciamo altri comparti. Peraltro cioè, a far soffrire le banche e anche comunque le assicurazioni è anche l'andamento proprio dei titoli di Stato. Ricordiamo infatti che le banche sono le società che sono più ricche proprio di titoli di Stato italiani. Anzi, è stato uno studio di Citigroup a riaccendere la lente proprio su questo aspetto, ricordando peraltro anche una stima di quelli che sono i titoli di Stato in portafoglio a ciascun istituto. Intesa San Paolo, ad esempio, sempre secondo le stime di Citigroup, è l'istituto più esposto nei confronti del debito nazionale con 54 miliardi di euro, a seguire Unicredit 43 miliardi. Ovviamente nel momento in cui nel momento in cui i titoli di Stato abbiamo visto che registrano degli scossoni, ovviamente ne risente tutto il sistema creditizio e finanziario. Allora Eleonora, adesso abbiamo una breve pausa per la viabilità e poi ti vorrei sentire su qualche altro titolo, a partire da Finmeccanica, tema che abbiamo trattato, come ricorderete, venerdì scorso, perché insomma in due giorni ha perso circa il 25%, e poi Buzzi Unicem, la viabilità. Stiamo parlando di mercati al 349-238-6666. C'è qualche SMS che sottolinea questa performance di oggi di Campari, che è stato l'unico titolo positivo di giornata. C'è chi ci scrive: beviamoci sopra. C'è chi ci scrive: si beve per dimenticare. Veniamo invece a Finmeccanica, che avrebbe dovuto far dimenticare un giovedì e venerdì veramente pessimi, con mi pare un 25% circa perso nel giro di due sedute, e mi sembra che abbia beccato anche la giornata sbagliata, tutto sommato, Eleonora. Guarda, Finmeccanica questa mattina in verità segnava una performance più brillante del mercato, è arrivato a guadagnare oltre il 3%, ha chiuso meno 2,7%, ma ha fatto meglio sicuramente del mercato. Ovvio, rispetto ai cali dei due giorni precedenti, si tratta di una magra consolazione. Diciamo che comunque a riaccendere i riflettori sulla società sono state le parole rilasciate dall'amministratore delegato Orsi proprio al quotidiano Sole 24 Ore. Il manager ha ribadito che il bilancio 2011 verrà comunque chiuso in utile, nonostante appunto le criticità che erano venute fuori nei giorni precedenti, e inoltre escluso anche eventuali operazioni di aumenti di capitale, e quindi questo soprattutto in mattinata aveva dato sollievo alle azioni, spingendole in alto. Poi ovviamente nel pomeriggio è crollato letteralmente tutto. Allora, caso di borsa, se così possiamo dire, in una giornata come oggi, anche Buzzi Unicem, ve l'abbiamo citata prima, ed è rimasta in mezzo alla sfilza di bancari assicurativi, quindi è andata discretamente male, meno 4,76%. Sì, anche in questo caso diciamo che la società non ha beneficiato del fatto che la Dikerhoff, ovvero la controllata dell'azienda, ha pubblicato una semestrale superiore all'attese. In particolare l'utile netto della controllata si è attestato nel primo semestre 2011 a 19 milioni, mentre lo scorso anno era stato solamente di 1 milione. D'altra parte, appunto, con la giornata di oggi, poi alla fine anche le Buzzi hanno perso oltre il 4%, quasi il 5%. Allora, tra i titoli minori che cosa c'è da segnalare, Eleonora? Tra i titoli minori ci sono alcuni titoli che sono schizzati. Apulia Pronto Prestito ha fatto più 14,2%, Monti Ascensori più 5,6%, ma d'altra parte c'è in queste giornate in cui ovviamente i titoli a maggiore capitalizzazione vengono colpiti dalle vendite, forse spesso si rincorrono diciamo storie o rumor su società che hanno titoli poco liquidi e quindi è facile farle schizzare al rialzo o al ribasso. D'altronde ricordiamo che nel durante della seduta sono entrati in asta di volatilità ben 12 titoli del paniere FTSE MIB, quindi cioè, tra i titoli principali diciamo c'era molta bagarre. Allora, sì, le ultime due note di giornata su Brembo e Maire Tecnimont. Sì, per quanto riguarda Brembo si può dire che oggi la società ha pubblicato i conti, nel secondo trimestre i ricavi hanno vantato un progresso dell'11,5%, d'altra parte il mercato è rimasto sorpreso per le prospettive dell'azienda, soprattutto le prospettive per la seconda metà dell'anno. E nonostante i vertici di Brembo abbiano confermato gli obiettivi per fine anno di un rialzo dei ricavi tra il 10 e il 15%, hanno ammesso tuttavia che il rallentamento delle commesse in Germania e Cina potrebbero pesare alla fine sui conti e far sì che questi potrebbero risultare comunque nella parte bassa della forchetta. Per quanto riguarda Maire Tecnimont, questa mattina i titoli sono arrivati a perdere oltre il 13% poco dopo l'apertura, andando quindi in netta controtendenza con l'andamento di questa mattina del mercato e proprio risentendo dell'annuncio dei conti del primo semestre. L'azienda ha accusato una perdita di 152 milioni, risentendo soprattutto delle perdite accusate sui progetti portati avanti in Sud America. Bene, mentre invece al lato dei cambi direi, Eleonora, ben poco da segnalare, cioè che post accordo sul debito l'euro ha, se non erro, perso qualcosa, insomma era se non erro intorno all'1,44 a chiusura di venerdì, adesso siamo sull'1,42 anche sulla scorta di quel che sta succedendo sui mercati, no? Sì, sul finale l'euro si è indebolito e ovviamente risente di quelli che sono i timori sulla situazione debitoria dei paesi dell'eurozona. Poi comunque è un mercato molto volatile e nervoso anche come abbiamo visto non solo sulle borse, non solo sul mercato dei titoli di Stato ma anche sui cambi. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Corri Il Sole 24 Ore, buonasera. Questo è il quadro dai mercati, siamo quasi in chiusura, come vi dicevamo, Focus Economia per queste settimane di agosto durerà solamente un'ora. E veniamo all'altro tema che è anche parzialmente collegato, anzi forse in gran parte collegato a quello che sta succedendo sui mercati. Ossia il tema della crisi economica, di quello che è stato definito l'attacco della speculazione. Governo e parti sociali, il governo ha convocato le parti sociali per parlare proprio della crisi per giovedì prossimo. E prima le parti sociali incontreranno l'opposizione. E il giorno prima il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, sarà in aula alla Camera e poi al Senato proprio per parlare della crisi economica. Saluto Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore. Nicoletta, buonasera. Buonasera a voi. Allora, mi sembra che il pressing delle parti sociali e di Confindustria in queste ultime settimane, in questo ultimo paio di settimane sul governo si sia accentuata e stia dando i suoi frutti. Certo, il pressing di Confindustria, devo dire il pressing anche di tutte le parti sociali, c'è stata la settimana scorsa questo appello congiunto di tutte le 17 organizzazioni di imprenditori e di sindacati proprio che hanno chiesto una discontinuità a favore della crescita. E su questo si è comunque messo in moto tutto un movimento anche politico per cui poi alla fine Berlusconi, il governo, convocherà le parti sociali giovedì e si vedranno anche con l'opposizione. L'urgenza è chiara anche dai numeri di oggi perché nonostante poi l'accordo sul debito americano, i dati dell'industria manifatturiera americana hanno fatto girare in ribasso Wall Street e la nostra borsa oggi ha avuto comunque un crollo molto consistente, oltre il 3%. È di poco fa un nuovo record tra il differenziale tra i bond tedeschi e i BTP italiani, 354 punti, cioè qui maciniamo record storici in tempi rapidissimi. Tutti questi dati ci fanno capire che è assolutamente necessario, impellente, urgente mettere mano alla crescita e a misure di sviluppo del paese, perché con un andamento dello 0,8-0,9 del PIL, con una crescita così cioè non si possono soltanto fare soltanto tagli, serve anche creare sviluppo per poter anche affrontare il problema del deficit del debito pubblico nostro. Questo in sostanza è quello che chiede Confindustria, quello che chiedono tutte le associazioni datoriali e anche i sindacati, e lo hanno chiesto abbastanza nitidamente con quel manifesto del quale parliamo. Da quel che sei riuscita a cogliere tu, Nicoletta, dal lato delle richieste un po' più concrete, che cosa è già emerso qualcosa? Ci stanno lavorando in questi giorni, cioè l'obiettivo delle parti sociali è proprio di arrivare giovedì al tavolo con il governo con poche richieste condivise al massimo. Certo non è facile magari mettere d'accordo chi come la CGIL chiede una patrimoniale o magari anche tra gli imprenditori chi vuole un ritocco dell'IVA e i commercianti che dicono di no, però si sta lavorando proprio in questo momento così di emergenza, perché veramente di emergenza, di mettere da parte anche paletti, ideologie eccetera e trovare poche proposte condivise. Ci si sta lavorando adesso. So che già mercoledì pomeriggio i vari leader di Confindustria, di ABI, cioè saranno già a Roma per lavorare, stanno tessendo la tela per arrivare al tavolo, poche misure, sia nel breve per proprio ridare uno sprint ad una macchina ferma, perché abbiamo visto che anche la nostra ripresa si sta un po' fermando, e nel medio con interventi un po' più strutturali, ecco, su due fronti. Ecco Nicoletta, brevissimamente il tema della richiesta di incontro con l'opposizione, che è anche un tema interessante. Certo, perché poi certi interventi così strutturali, così importanti per il Paese, devono essere interventi condivisi, bisognerebbe ritrovare la stessa coesione e la stessa energia che poi ci ha portati ad approvare la manovra in brevissimo tempo, cioè in tempi assolutamente, che doveva essere approvata in questa prima settimana di agosto, abbiamo anticipato di 15 giorni, perché appunto l'impellenza della risposta da dare ai mercati ha imposto una maratona parlamentare. E quindi ecco, bene anche l'incontro con l'opposizione, poi vedremo come andrà avanti anche il dibattito politico, certo abbastanza inquieto insomma in questa fase, perché se ci fosse una stessa condivisione maggioranza e opposizione è chiaro che le misure andrebbero molto più rapide in Parlamento. Naturalmente. È importante che l'opposizione condivida le scelte strategiche sulla crescita. Certo. Certo, chiarissimo, grazie a Nicoletta Picchio del Sole 24 Ore, un ringraziamento a Mauro Del Corno in redazione e Mauro De Angeli in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.